Buongiorno a tutti, bentornati in questo podcast natalizio targato sempre Fitness Discovery. Oggi facciamo un esperimento, nel senso che non parliamo uno vicino all'altro come sempre in studio o con ospiti, insomma in varie occasioni come abbiamo fatto nel passato, ma lo facciamo via Skype. Quindi se ci sono qualche problemino di voce eccetera, perdonateci da subito, ma è un nuovo esperimento che stiamo facendo. Quindi io sono Lorenzo Vieri e sono qui a Brescia e con me c'è sempre il Enrico Dell'Olio. Eccomi qua, ciao a tutti, un saluto da lontano questa volta e niente, proviamo appunto questo esperimento come diceva giustamente Lorenzo e se dovesse funzionare verrà anche portato avanti per alcuni altri podcast successivi. Assolutamente, visto che con Skype ci permette di fare tutta una serie di anche di conversazioni, per esempio a 3 o a 4, addirittura dei webinar, quindi lo possiamo tranquillamente replicare. L'argomento di oggi è legato all'antinvecchiamento e lo abbiamo, visto che siamo in tema di overdose di cibo, visto che siamo insomma sotto le feste e a ridosso del Natale, del Capodanno, eccetera, parliamo un po' di, in realtà andiamo contro tendenze, parliamo di restrizione calorica e di invecchiamento. Nella fattispecie parliamo di questi geni che ormai sono diventati celebri nei programmi di anti-aging e neanche nel bodybuilding in realtà, perché il bodybuilding è sempre un ambito all'avanguardia quando si parla di metabolismo, che sono le sirtuine e tutto quello che ne consegue per la loro attivazione o inattivazione per quanto riguarda l'invecchiamento e il metabolismo cellulare. E qui colgo subito l'occasione di parlare con Enrico di questo, perché è lui in realtà il vero esperto di questo ambito e quindi potrebbe introdurre lui l'argomento. Beh, esperto, fa parte, come hai detto giustamente tu, della ricerca degli ultimi 2 anni, anche per la stesura del mio nuovo libro, Anti-Aging ad alta intensità. E sì, le sirtuine sono, come dicevi giustamente tu, dei geni ancestrali che ritroviamo sostanzialmente in tutte le forme di vita, anche nei vermi, nei nematodi fondamentalmente, e sono legate sostanzialmente a quelli che sono principi o strutture di manutenzione di quello che è il nostro DNA e il nostro metabolismo in generale, in particolare la funzione mitocondriale. Come giustamente hai introdotto tu, questi antichi geni, l'attivazione di queste vie metaboliche, che chiamiamo sirtuinergiche, hanno un'azione diretta sulla riparazione del DNA e di tutti i sistemi, tra cui quelli mitocondriali. E noi sappiamo bene che tutto ciò che è legato al mitocondrio si lega anche alla nostra qualità e lunghezza di vita. E sappiamo anche che l'unica cosa che in questo momento su tutte le specie funziona bene per quanto riguarda l'attivazione mitocondriale, la densità, l'aumento della densità mitocondriale, la diminuzione della produzione di radicali liberi, sempre a livello mitocondriale all'interno della cellula, è la restrizione calorica. E la restrizione calorica agisce proprio direttamente su queste vie, le vie sirtuinergiche, sull'attivazione di queste vie metaboliche. È interessante tra l'altro la restrizione calorica, perché quando parliamo di restrizione calorica non parliamo semplicemente di eliminare alimenti, ma di mantenere comunque una densità di micronutrienti, micro ed oligonutrienti, quindi vitamine, sali minerali, antiossidanti, eccetera, molto alta, mentre riduciamo la quota calorica. La quota calorica in maniera tra l'altro indiscriminata, cioè noi si vede che indipendentemente da dove vengono sottratte le calorie, quindi che siano sottratte dai carboidrati, dalle proteine o dai grassi, una riduzione dell'apporto calorico almeno sotto il 20-30% di quello che è considerato l'apporto calorico di sussistenza, mantenendo tuttavia alta la quantità di micronutrienti e oligoelementi, sali minerali, vitamine, antiossidanti, come dicevamo prima, agisce direttamente sull'attivazione di queste vie metaboliche che servono appunto, che almeno in varie specie, si sono dimostrate importanti per l'allungamento della vita della specie stessa, in maniera tra l'altro inversamente proporzionale a quella che è la lunghezza della vita considerata mediamente della vita della specie stessa. Ossia, per esempio, più la vita di una specie, prendiamo un nematode, per esempio un verme che è intorno agli 8-9 giorni, quindi è corta, e più l'allungamento della vita che si ottiene tramite restrizione calorica è lungo. e si riescono a portare addirittura dai 9 giorni di media a 18, 20, 22 giorni in queste specie. Nelle specie con vita più lunga, come per esempio gli scimpanzé, gli studi sono ancora in fase di... le ricerche sono ancora in fase di studio, perché vivono intorno ai 40 anni gli scimpanzé, però sono già stati iniziati circa 20 anni fa e pare che anche negli scimpanzé ci sia effettivamente un miglioramento di tutto il profilo lipidico, il profilo generalmente legato all'ottimizzazione l'ottimizzazione della conversione, per esempio, dei substrati energetici in energia chimica o in energia termica, l'ottimizzazione nella riduzione dei radicali liberi, eccetera, eccetera, che ci fa presupporre che molto probabilmente ci sarà un allungamento di vita. Quanto, come dicevamo prima, è inversamente proporzionale alla lunghezza della vita stimata di queste specie. E in specie di 40-50 anni si calcola tra il 10 e il 20%, e nella nostra specie probabilmente tra il 7 e il 10%, perché è molto lungo il tempo di vita. Quindi una restrizione calorica importante potrebbe portare a aumentare il nostro tempo di vita intorno al 7-10% in più di quello che è normalmente stimato come medio. Beh, questa è un'ottima introduzione, devo dire, quindi che spero abbia chiarito un po' i meccanismi di funzionamento delle sirtuine. E io approfondirei la parte legata a due parti in realtà che mi vengono in mente legate alle sirtuine. E negli studi che sto facendo anch'io in parallelo con te e a quelli che hai già fatto tu, è interessante proprio la conservazione di questi geni dal lievito, sostanzialmente negli eucarioti, degli animali più semplici, dal lievito all'uomo. Quindi geni normalmente in evoluzione, geni così ben conservati sia come sequenza sia come struttura, sono segno di un'importanza funzionale nella cellula e quindi negli organismi, strutturale e funzionale, esatto. Negli organismi. Quindi, infatti, qual è di solito la proteina più conservata in termini di sequenza nel corrispondente gene? Sono gli stoni, che troviamo infatti praticamente identici dal lievito all'uomo. Esatto. Quindi già questo ci dà un segnale, anche se... Lorenzo, se vuoi approfondire un attimo cosa sono gli stoni, perché probabilmente grossa parte del nostro pubblico non sa che cosa sono le proteine stoniche. Certamente gli stoni sono quelle proteine su cui il DNA normalmente si superavvolge, perché il DNA ha una lunghezza che sembra paradossale, ma è lungo circa 2 metri, se fosse tutto srotolato, 2 metri in ogni cellula. Ma... Per far capire quanto ce n'è, se dovessimo mettere in fila i 2 metri di ogni cellula di DNA che noi conteniamo, per il numero delle cellule che abbiamo in un organismo mediamente, che sono circa 100 triliardi, okay, mettendolo in fila potremmo raggiungere la fine della nostra galassia. Insomma, per capire la lunghezza di quella del fili di DNA contenuti in corpi umani. Okay. Quindi è abbastanza interessante come paradosso. E se fosse tutto svolto, chiaramente non ci sarebbe in un nucleo cellulare e dunque va a superavvolgersi e quindi a compattarsi su queste proteine e in altri modi anche, che non ha senso approfondire adesso, e quindi riesce a stare in un DNA, in un nucleo molto piccolo, di circa 1 micron di dimensione. E tornando alle sirtuine, dunque questa è la prima cosa: in evoluzione, quando qualcosa è molto conservato, difficilmente è lì per caso. Questo è una regola generale, quindi anche se non sapendone ancora tutte le funzioni, sappiamo l'importanza di questi geni per il funzionamento cellulare. Esatto. E la seconda parte che mi volevo approfondire è legata al loro diciamo, ruolo. Infatti le sirtuine sono una classe di proteine che si chiamano, vengono chiamate enzimi deacetilasi. Le acetilasi cosa fanno? Sul DNA, agiscono proprio sul DNA, di cui parlavamo proprio poco fa, e vanno a, in questo caso, silenziare determinate porzioni del DNA. Infatti l'acronimo di sirtuina di SIR è Silent Information Regulator. Esattamente. Esatto. Ma non solo questo, hanno questa azione, ma hanno anche un'azione su tutta una serie di proteine legate a vie metaboliche importanti che regolano tante funzioni. Quindi abbiamo un bersaglio sul DNA, ma abbiamo anche un bersaglio che è di natura sostanzialmente proteica. Alcune proteine sono... Adesso per fare esempi, senza entrare troppo nel dettaglio, sono per esempio la P53, che è una proteina abbastanza conosciuta perché è un soppressore tumorale, molto soppressore del ciclo cellulare e soppressore tumorale. dal via all'apoptosi nella cellula sostanzialmente. Esattamente, e poi appunto alle proteine apoptotiche, e qui rientra il mitocondrio per esempio, che è un centro nevralgico di inizio della morte cellulare programmata. Infatti danno mitocondriale di solito, se non viene ripristinato il danno, sostanzialmente la cellula va incontro a morte spontanea. Esatto. Quindi le serotonine hanno tutta una serie di bersagli estremamente importanti a livello cellulare. E abbiamo visto che esistono anche però sostanze, e qui anche qui intervieni pure, perché anche qui una tua parte è core, sostanze che sono in grado di agire come mimetici della restrizione calorica. Cosa vuol dire? Un mimetico della restrizione calorica è una sostanza che innesca gli stessi effetti appunto che la restrizione calorica avrebbe su una cellula, quindi su anche un organismo in questo caso, ma senza appunto deprivazione calorica. Questo è un dato molto, molto interessante. E qui Henry entra tu che nel vivo della faccenda. Esatto, esatto, Lorenzo, hai fatto un'ottima introduzione a quello che sto per dire. E allo studio in effetti ci sono tutta una serie di molecole che dovranno poi essere brevettate, che hanno un'azione mimetica rispetto all'attivazione di queste vie sirtuiniche, escludendo quindi la restrizione calorica, perché il problema della restrizione calorica è quella che dovremmo vivere una vita con un 30-40% in meno di calorie rispetto a quello che è il nostro fabbisogno normale, molto ricco se vogliamo in micro e oligonutrienti, e sufficientemente bilanciata per farci sopravvivere, ma comunque vivremo sostanzialmente costantemente in uno stato di fame, e vivere 80 anni, 90 anni in uno stato di fame è molto complesso. Lo si può fare naturalmente sui topi, perché possiamo controllare tutti i fattori e li teniamo in una gabbia, ma sottoporre spontaneamente o artificialmente esseri umani a un regime alimentare di questo tipo è estremamente complesso. Quello che quindi si cerca di fare è trovare delle molecole naturali o chimiche, artificiali, costruite in laboratorio, che abbiano un'azione diretta sull'attivazione di queste vie, tramite per esempio l'attivazione dell'AMPK, adenosin monofosfato proteina chinase attivata, che agisce per in cascata su poi l'attivazione delle pipare e le vie sirtuinergiche in generale. Tra le molecole naturali particolarmente interessanti troviamo il resveratrolo, che molti di voi probabilmente, dei nostri ascoltatori, quando dico voi intendo i nostri ascoltatori chiaramente, avranno sentito nominare, perché sono molto attenti, se ascoltano questi podcast hanno già una cultura di base su quella che è l'integrazione all'alimentazione abbastanza approfondita. Il resveratrolo si trova principalmente all'interno del vino rosso ed è un flavonoide, e ad alti dosaggi ha un'azione molto simile, mimetica quindi, a quella della restrizione calorica, quindi aumenta la funzione, migliora la funzionalità mitocondriale, aumenta la densità mitocondriale e attiva tutte queste vie legate alla miglior funzionalità, riparo, diciamo, alla riparazione del DNA, per semplificare la cosa, che farebbe la restrizione calorica. Naturalmente non nel dosaggio di un bicchiere di vino, ma nel dosaggio troviamo la quantità necessaria per fare questo in alcuni ettolitri di vino. E con tutti, bevendo alcuni ettolitri di vino, ammesso e non concesso che fosse possibile, naturalmente i danni al fegato, i danni epatici e il rischio di mutazione. Noi sappiamo che gli alcolici aumentano molto il rischio di mutazione cellulare, quindi di insorgenza di tumori, diventerebbe estremamente grande. E non è possibile quindi introdurre il resveratrolo tramite il vino, come invece ci fanno spesso pensare nelle trasmissioni, nelle classiche trasmissioni che vediamo a ora tarda nella notte. Un'altra molecola molto interessante sono quelle contenute per esempio all'interno del tè verde, l'epigallo catechina e gallato, che vengono considerati antiossidanti, ma in alto dosaggio anche questi hanno un'azione di attivazione di queste vie metaboliche. E tra le molecole invece chimiche che si stanno testando nell'anti-aging e che prima venivano utilizzate a altri scopi e continuano a essere utilizzate a altri scopi, troviamo la metformina, che viene utilizzata normalmente per il controllo della glicemia nel diabete di tipo 2, nel diabete mellito di tipo 2, e invece oggi sappiamo che ad alti dosaggi, quindi a non i dosaggi che vengono utilizzati per il controllo della glicemia nel diabete, ha un'azione diretta sull'attivazione di alcune delle vie metaboliche coinvolte anche nelle sirtuine. Quindi ci sono queste molecole, principalmente allo studio, insieme a una serie di altre molecole che dovranno essere brevettate e che dovrebbero poi in futuro essere utilizzate proprio per rallentare i processi di invecchiamento. E quindi da questo discorso che abbiamo appena fatto sorge una domanda spontanea sostanzialmente, che visto che abbiamo parlato di mitocondrio, come si mantiene un mitocondrio in salute, potremmo dire? Perché sappiamo benissimo come la simbiosi cellula-mitocondrio, secondo la teoria della Margulis, essendo una simbiosi, deve funzionare per entrambe, la salute deve esserci da entrambe le parti, quindi dalla parte del simbionte, del mitocondrio, e dalla parte dell'organismo che ospita il simbionte, ovvero la cellula classica, il nostro citosol cellulare. E chiaramente se il mitocondrio non funziona abbiamo tutta una serie di problemi e sembra il disordine mitocondriali e malefficienza di questi del mitocondrio. Per malefficienza mitocondriale cosa intendiamo? Un eccesso di produzione di radicali liberi dati dalla catena respiratoria che non è efficiente nel produrre ATP senza disperdere sostanzialmente elettroni dall'ossigeno. E dalla catena, scusate, qual è il problema di questo? Che l'eccesso di radicali liberi dà tutta una serie di problematiche a livello cellulare, vengono attaccate proteine dai radicali, viene penalizzato il metabolismo cellulare, per esempio a livello degli zuccheri, dei lipidi, viene danneggiata la membrana, anche il mitocondrio stesso è danneggiato, e si creano tutta una serie, il DNA, come dicevamo prima, è molto danneggiato, e si creano quindi tutta una serie di circostanze per cui la cellula non riesce a lavorare in piena efficienza. Quindi, Enrico, come lo manteniamo questo mitocondrio in salute? Beh, sicuramente la qualità degli alimenti che noi che utilizziamo e la densità di micro ed oligoelementi è fondamentale per il mantenimento del mitocondrio in salute. Quindi alimentazioni estremamente caloriche, molto lontane da quelle paleo, fondamentalmente, tendono a creare un danno mitocondriale progressivo nel tempo. Ma non solo. Non solo, questo è il punto, un punto importante di questa discussione è che vorrei accennare al fatto che esiste oggi, almeno io la stimo così, sono dati, prendeteli come dati empirici, però ho una platea notevole di persone che io in qualche modo vedo, seguo o conosco e quindi mi posso basare su dei numeri abbastanza importanti, qualche migliaio di persone, e stimo che circa il 15-20% della popolazione in qualche modo abbia subito un danno mitocondriale o abbia un'incapacità parziale di conversione dei substrati energetici, quindi carboidrati, grassi, aminoacidi, eccetera, in energia termica o chimica, quindi in ATP, o in energia termica, quindi per l'innalzamento della temperatura. Questi danni mitocondriali sono dati da vari fattori, ne conosciamo alcuni già, comincia a esserci una buona letteratura scientifica sulle molecole che possono creare questi tipi di danni, e sappiamo che alcune molecole, per esempio, vengono anche oggi definite obesogeniche, cioè che tendono a far ingrassare, perché se il mitocondrio non funziona, come dicevamo prima, se questi organelli che sono preposti per la produzione di energia nel nostro organismo funzionano male, non solo si rischia di invecchiare più velocemente, ma si rischia anche poi, una volta che arrivano nel sangue le proteine sotto forma di aminoacidi, i carboidrati sotto forma di zuccheri semplici, glucosio, fruttosio, eccetera, o i grassi sotto forma di monoacili gliceroli, da qualche parte devono andare a finire. E se non vengono utilizzati per scopi energetici, vengono messi a riserva sotto forma di adipociti o all'interno degli adipociti, meglio ancora. Dicendo questo, quindi, ci esistono alcune molecole che interagiscono in maniera negativa con la funzione mitocondriale e, per esempio, sappiamo che la pillola anticoncezionale ha questi effetti, non su tutti naturalmente, c'è una predisposizione, infatti parliamo di un 15-20% della popolazione, però esiste questa problematica con la pillola, con alcuni antinfiammatori, con alcuni farmaci per il controllo della depressione, degli stati d'animo, per esempio come lo Xanax, il Prozac, il Lexotan, eccetera, ci sono problemi anche con alcuni diserbanti che vengono usati in maniera industriale nella nostra agricoltura, uno nella fattispecie è il Roundup, molto famoso, che contiene glifosati. Ecco, tutte queste molecole e molte altre ancora che vengono normalmente usate, anche il cortisone nel trattamento, se usato in maniera cronica, nel trattamento dell'infiammazione generale sistemica o localizzata. Ecco, tutte queste molecole noi sappiamo che possono produrre un danno o interagire negativamente anche con il mitocondrio. Ecco, una, tra l'altro, mi stavo dimenticando una cosa molto importante: alcune classi di antibiotici, che possiamo definire più chemioterapici che antibiotici, perché sappiamo che la maggior parte degli antibiotici derivano generalmente da funghi, mentre invece ce ne sono alcuni invece che agiscono direttamente sulla replicazione del DNA, batterico, e essendo, come dicevi giusto tu poco prima, il mitocondrio di derivazione batterica, secondo la teoria endosimbiontica della Margulis, ormai universalmente accettata, in alcune persone particolarmente sensibili, incidere sulla replicazione, sulla capacità replicazione del DNA nel batterio, in questo caso il batterio patogeno, potrebbe anche in determinate condizioni e in persone particolarmente sensibili rivelarsi un'arma a doppio taglio e incidere sulla capacità di replicazione mitocondriale all'interno delle nostre cellule. E abbiamo prove di questo. Ci sono molte persone che dopo terapie antibiotiche si sentono estremamente stanche, incominciano a ingrassare e per molto tempo, a volte anni, non riescono più a tornare a una condizione di normalità. Quindi è bene che si sappia che alimenti, molecole, farmaci possono essere utilizzati nel bene o nel male per l'attivazione dei processi anti-aging, nel caso in cui utilizziamo, dicevamo prima, il resveratrol, per esempio la metformina o l'epigallocatechina gallato, gli antiossidanti contenuti nel tè verde, o l'utilizzo di farmaci o di altre molecole che assumiamo con la nostra alimentazione per l'inibizione della funzione di questi mitocondri, quindi che possiamo considerare pro-aging, ossia pro-invecchiamento. Volevi aggiungere qualcosa? Ah, giusto per dare dei numeri, noi sappiamo che in ogni cellula mediamente non c'è un mitocondrio, ma ce ne sono da 50 a 500 mille, quindi quando parliamo di un danno mitocondriale non parliamo di danno a un mitocondrio, ma la situazione nella cellula si fa problematica se 50 o 500 mitocondri non funzionano nella maniera corretta. Quindi stiamo parlando di un organello estremamente importante, centrale nel metabolismo cellulare e nella vita della cellula stessa, che quindi deve essere in piena efficienza. E aggiungo solo che molte patologie che un tempo si pensava fossero genetiche o in qualche modo influenzate dalla genetica, come per esempio malattie come la SLA, come l'Alzheimer, come il Parkinson, si è visto che almeno in parte, e per quanto riguarda la SLA sembra in maniera abbastanza preponderante, derivano da un danno proprio mitocondriale, dei mitocondri che sono legati in questo caso ai neuroni. E dunque, a maggior ragione, l'efficienza mitocondriale è un qualche cosa che ci serve per mantenerci in salute e per prevenire tutta una serie di malattie degenerative che sono chiaramente problematiche anche in termini di salute generale di popolazione. E questo è quello che mi sembrava giusto aggiungere. Sì, guarda, la medicina, lo sappiamo bene, oggi si sta indirizzando proprio verso il miglioramento della funzionalità mitocondriale come prevenzione a tutta una serie di patologie, come quelle che hai ben descritto tu, che sappiamo che derivano direttamente dal danno o dalla non efficienza delle nostre centrali energetiche, quindi mitocondri. Concluderei qui quindi il podcast. Abbiamo fatto una bella panoramica sulle sirtuine e sulla funzionalità mitocondriale nell'anti-aging. Cogliamo l'occasione per augurare a tutti buon Natale, visto che questo podcast viene pubblicato nel giorno di Natale. E quindi auguri di buon Natale e felice anno nuovo, qui dalla ITA, da Lorenzo Vieri. E da Enrico Dell'Olio, buon Natale a tutti. Alla prossima. Alla prossima.